Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno, ci siamo. Decreto legge o non decreto legge, virus o non virus, ci siamo. Deborah, tu come stai? Io sto bene, sono in attesa del decreto Cura Italia, per la verità lo aspettavamo ieri per poterlo raccontare bene bene ai nostri ascoltatori. Sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma come avremo modo di raccontare, Mauro, noi qualche anticipazione ce l'abbiamo. È un provvedimento molto importante, le misure economiche sono tante, molto delicato nei suoi passaggi, per cui diciamo che anche questi tempi li possiamo giustificare, no, nell'operato del governo, perché si sta mettendo in campo una serie di iniziative mai viste prima. È così, e infatti chi ci segue sul Facebook, non so quanti ci seguono così o magari ci risentiranno, riascolteranno a un orario successivo, potrà vedere che io tengo in mano la bozza, sono 84 sì. Pagine fitte, è vero. 120 articoli per ora, vediamo poi che cosa uscirà dal Consiglio dei Ministri, convocato appunto per questa mattina, ne abbiamo parlato poc'anzi nel giornale radio. E noi abbiamo anch'io ho dato un'occhiata, so che questa è la tua grande passione, quella di andare a spulciare rigo rigo i provvedimenti, la gazzetta e quant'altro, però anch'io mi sono segnata un po' gli articoli che potranno interessare gli ascoltatori di Due di Denari nello specifico. In realtà tutte le misure ci interessano tutti, però ce n'è qualcuno naturalmente di provvedimento che ci interessa un pochino più accuratamente, e noi ne parleremo. E oggi da che cosa partiamo, Mauro? Da un tema che è a te molto caro, quindi oggi farai un figurone con gli ascoltatori. Ma speriamo. Allora, oggi partiamo sicuramente dalle questioni fiscali, perché oggi 16 dicembre sì. È una era, non so che tempo devo usare, una scadenza di versamento IVA, però ci hanno detto no, guardate, ci sarà la proroga, quindi state tranquilli. Allora, tutti stiamo tranquilli, però finché non c'è, come dire, il pezzo di carta, la norma scritta e in gazzetta ufficiale, insomma, un pochino di agitazione resta sempre. E poi chi ha già pagato che fa? Magari ha già disposto i pagamenti, che fa? Torna indietro, li lascia lì e tanto oramai, come dire, ha già scontato in qualche modo questo versamento. E allora, guarda, io ho anche scomodato un mio amico che è esperto anche lui e grande appassionato di lettura, di testi normativi prima ancora che diventino legge, e con il tuo permesso lo introduco già, perché sta lì e sta aspettando anche lui le decisioni del Consiglio dei Ministri. Do il benvenuto. Sono ben contenta di sentirlo, sì. Do il benvenuto, anzi il bentornato, Due di Denari, a Cristiano Dell'Oste, collegato smart worker, giusto Cristiano? Eh sì, siamo tutti adattati in questa realtà di smart working. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, Cristiano è un po' la nostra antenna sulle misure fiscali, poi avremo anche un altro esperto di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari. E invece nella prima parte della trasmissione, cara Deborah, è tutto sulle tue spalle. Perché? Esatto, e questa mattina è proprio il caso di dirlo che il peso è particolarmente importante, perché parleremo dell'avvio della settimana finanziaria, che è molto pesante per gli listini europei. Qualcuno si sorprende perché nella nottata è arrivato il nuovo bazooka, questa volta non di Mario Draghi della Banca Centrale Europea, a cui ci aveva abituati in passato, perché la BCE, come sapete, nelle ultime giornate in realtà anche con qualche errore di comunicazione si è comportata diversamente, ma stanotte è intervenuta pesantemente la Banca Centrale Americana, che non ha sortito alcun effetto sui mercati, per cui anche in questo caso abbiamo dovuto interpellare un esperto per farci spiegare perché al mercato non basta la nuova maxi iniezione di liquidità operata in nottata dagli Stati Uniti, peraltro a cui ha fatto seguito anche l'iniziativa di tante altre banche centrali nel mondo, che ormai stanno portando tutte i tassi a zero. Ma il punto è che questo non basta, perché la crisi, ci hanno spiegato, non è finanziaria, adesso ne parleremo, a tutt'altra natura, per cui è più difficile da gestire da parte di queste autorità. Infatti anche le banche centrali continuano a dire che sono i governi che devono assumersi degli impegni precisi. In questo momento le banche centrali fanno tutto quello che hanno la possibilità di fare, ma ne parleremo tra qualche istante, dando anche le variazioni percentuali di questa seduta, che sono che sono abbastanza significativamente appunto pesanti, come vi dicevo. Preferirei non darle, però invece, guarda, per distrarmi darò i numeri di telefono, che non sono cambiati ovviamente. 800 24 00 24 per chi vuole intervenire in diretta, e invece 349 238 6666 per i vostri messaggi via SMS o WhatsApp. Naturalmente abbiamo sempre disponibile, anche in questi tempi così sospesi, il nostro, la nostra casella di posta elettronica, 2 di denari, scritto tutto a lettere, 2 di denari @radio24.it. vi ho già ricordato il Facebook, siamo anche sul Twitter, su Instagram, insomma tutti i vari canali social attraverso i quali potete seguirci. Allora, io direi, Deborah, senza por tempo in mezzo, andiamo, tuffiamoci in questo abisso dei mercati. Meteo Borsa. Allora, io intanto scatto la consueta Polaroid sull'andamento in questo momento delle borse europee, ricordando che già questa mattina in Asia la seduta si è chiusa in passivo per tutti gli indici. Le borse cinesi hanno avuto un ribasso fra i 3,5 punti e i 4 punti, anche Tokyo è andata molto male, -2,46%, ma già con la prestazione negativa di venerdì Tokyo, pensa Mauro, si era portata ai minimi da 30 anni a questa parte. Questa mattina l'Australia, l'indice australiano, ha avuto un ribasso del 9,7%, è stata la peggior seduta dal 1987, praticamente. Ti ricordi, noi all'inizio dell'anno parlavamo di un record positivo dietro l'altro, adesso ne stiamo inanellando uno negativo dietro l'altro. Insomma, anche questo ci tocca raccontare sui mercati, ma quello che vorrei capire questa mattina dal nostro ospite è perché questa super iniziativa comunicata dalla Federal Reserve nella nottata non ha sortito nessun effetto. Per cui io vi presento un ospite che peraltro fa il suo debutto oggi a Due di Denari, è Fabio Cagliani, Managing Director, Head of Southeast Europe di Nordea Asset Management. Ben trovato Cagliani e grazie di essere con noi a condividere questi momenti un po' turbolenti di mercato, ai quali peraltro gli operatori professionali sono sicuramente abituati, ma diciamo che magari quello che abbiamo visto in questi giorni, ecco, forse non si era mai visto. Cagliani, buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sarebbe piaciuto fare un esordio, diciamo, in un momento più felice e fortunato. Guardi, ma si può solo risalire, si può solo migliorare, per cui guardiamola un po' in prospettiva. Peraltro, adesso vorrei che lei ci aiutasse a raccontare cosa ha fatto la Banca Centrale Americana in nottata, quindi spiegandola in termini semplici ai nostri ascoltatori. Però volevo partire anche da un'altra notiziola interessante. Mauro, questa mattina ho caldeggiato a Marco Lombardo e a Danilo appunto di metterle in scaletta, perché c'è una società che debutta in borsa oggi a Piazza Affari, si chiama Unidata. Questa è la prima ammissione del 2020 su questo segmento appunto di borsa italiana, che è il segmento delle società piccole capitalizzazione. E mi ha molto colpito, perché io li ho definiti veramente degli eroi. Questa è una società che si occupa di cloud and data center, di internet of things, internet delle cose, fibra e networking. Sicuramente è un settore che da qui in avanti si svilupperà moltissimo, dato che tutti lavoreremo sempre di più a distanza, avremo sempre di più bisogno di collegamenti in remoto da ogni parte del mondo. In ogni caso, il coraggio di quotarsi oggi, veramente, Mauro, non so che cosa tu ne pensi, ma è da eroi. Io, sai che, Deborah, quando mi hai segnalato questa cosa ti ho chiesto: ma sei sicura o ci siamo sbagliati magari per la data? No. Ma forse, Cagliani, magari è una buona idea invece, perché ma proprio in questi momenti magari è più semplice, non lo so, butto lì delle cose veramente da ignorante assoluto, abbia pazienza. Beh, diciamo che peggio di così non poteva andare, no? Per cui da qui in avanti sarà tutto positivo per questa società. Al di là della battuta, è, diciamo, sicuramente un motivo di speranza che comunque l'attività economica ancora prosegua, e devo dire che dal punto di vista, dall'appunto, dell'attività della società che si sta quotando, è un'attività che credo possa avere un impatto positivo dalla situazione attuale. Bene. Stiamo lavorando da casa, quindi sappiamo tutti quanto, diciamo, questo potrà favorire aziende che operano in questo campo. A Allora, vediamolo quindi come segnale di incoraggiamento. Intanto non ci incoraggia più di tanto la prestazione degli indici europei in questo momento. La peggiore in assoluto in Europa è la Spagna, che effettivamente sta vedendo salire i contagi da coronavirus ora dopo ora, -10%, Milano -8,30% sul FTSE MIB, Francoforte -7,88%, Londra -6%, Parigi -9 punti percentuali, chiusura in ribasso per tutta l'Asia, come dicevo, i futures su Wall Street non preannunciano nulla di buono. Allora, nelle ultime ore finalmente ci sarebbe stata questa azione coordinata delle banche centrali mondiali per assicurare liquidità a sostegno dell'economia. Ieri proprio è stato divulgato un comunicato congiunto da Federal Reserve, Banca Centrale Europea, Banca del Canada, Banca d'Inghilterra, Banca del Giappone, Banca Centrale della Svizzera e poi Cagliani. La mossa a sorpresa nella notte da parte della Federal Reserve, che probabilmente anche su pressione non indifferente del presidente americano ha portato di nuovo i tassi di interesse vicini allo zero, lanciando anche questo enorme programma di quantitative easing. Ci spiega esattamente cosa ha fatto la Banca Centrale Americana e ci dà anche la sua interpretazione sul perché il mercato è totalmente indifferente a questa super iniziativa. Sì, diciamo che la reazione della Banca Centrale Americana per l'appunto è stata molto rapida. Ci si aspettava nel corso, diciamo, dei prossimi incontri un progressivo taglio dei tassi di interesse, hanno deciso un po' di anticipare tutto. E che cosa hanno fatto in buona sostanza? Hanno tagliato i tassi in una forbice dallo 0,025, quindi un punto percentuale in meno, quindi un importo veramente considerevole e importante, e hanno varato questo programma di quantitative easing, quindi in buona sostanza si impegneranno ad acquistare, a immettere liquidità nel sistema per un valore considerevole, 700 miliardi di dollari. Quindi tutto da manuale, un'azione tra l'altro concertata con le altre banche centrali, quindi l'obiettivo comune del sistema finanziario è quello per l'appunto di mettere liquidità nel sistema e far sì che il sistema non vada in tilt. Perché poi non sta funzionando? Intanto questo è il punto credo importante da valutare, da capire. Prima di tutto occorre dare, io credo, un po' di tempo, perché queste politiche monetarie possono, come si può dire, dare i propri risultati, ma soprattutto credo che non stia funzionando perché questa non è una crisi finanziaria e questi sono strumenti di politica finanziaria. Se nel 2008-2009 abbiamo avuto una crisi finanziaria che poi ha contagiato l'economia reale, oggi vediamo una situazione che è molto diversa. Questa è essenzialmente una crisi sanitaria che ha un impatto fortissimo sull'economia reale e di conseguenza anche poi sull'economia finanziaria, sulla finanza. Quindi gli strumenti da mettere in atto sono sicuramente legati al mantenimento del sistema, al funzionamento del sistema. Le banche centrali stanno facendo tutto quello che possono fare, credo, e hanno dichiarato che faranno anche oltre, ma quello che poi servirà sarà anche l'abbinamento con delle, credo, politiche più le politiche fiscali, le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese. Questa situazione, questa emergenza sanitaria passerà, ma dobbiamo essere pronti a ripartire nel momento in cui questo avverrà. Quindi questo credo che sarà molto importante nel proseguo, nello sviluppo della situazione. Certo. Io oggi credo, peraltro, c'è anche Mauro, no? Segnalavo, scusami, che purtroppo non riusciamo a coordinarci, scusami se mi accavallo sempre, quando tenti di cominciare a partire da qua non lo farò, sarò più attenta. No, stavo segnalando che c'è anche il G7 oggi, l'Eurogruppo, e poi queste riunioni che si fanno in teleconferenza, in videoconferenza, anche da parte dei grandi leader del mondo, anche questo ad ulteriore testimonianza di quanto sia difficile poi in ogni caso fare qualcosa di coordinato nel momento che persino tra di loro le comunicazioni devono funzionare così. Volevo segnalare solo un'altra notizia che non so se interpretare in maniera positiva, ci provo. Nel momento in cui tutti i grandi gruppi automobilistici stanno fermando le produzioni, soprattutto per la questione sanitaria, per sanificare gli ambienti e per consentire ai lavoratori di lavorare nella massima sicurezza possibile, per esempio Fiat Chrysler ha annunciato che Fiat Chrysler Italy e Maserati sospenderanno momentaneamente la produzione in Europa fino al 27 marzo. Stavo leggendo dalle agenzie, Mauro, che Volkswagen, ad esempio, sta riprendendo la produzione in Cina. Ora, Ora i problemi li sposta, sono spostati naturalmente in Europa, ma in ogni caso pian piano una grande fetta del mondo economico sta rimettendosi in marcia e chissà che questa non ci sosterrà appunto in maniera significativa prossimamente. Quindi adesso tutto sarà a carico della Cina a tenere un po' gli equilibri economici mondiali per quanto possibile in questa fase. Io credo proprio di sì, Deborah. E tra l'altro, guarda, volevo anche coinvolgere Caiani, il nostro esperto di questa mattina, sull'aspetto politica monetaria, politica, cioè abbiamo capito che, si è visto con questa cosa della Fed, le banche centrali possono fare tutta la liquidità possibile e immaginabile, ma in realtà se non arrivano proprio i soldi dall'elicottero, traducendo così l'helicopter money, da parte dei governi, mi pare difficile. Allora io non le chiedo Caiani un giudizio sulle misure governative che peraltro ancora devono arrivare, speriamo in mattinata, però il coordinamento internazionale magari per cercare di avere anche dal G7 degli impegni complessivi non potrebbe essere una misura che solleva un pochino questi mercati, perché qui gli ascoltatori sono spaventati, insomma dicono vabbè, ma a questo punto vendiamo, realizziamo, andiamocene, cioè prevale anche un po' questo atteggiamento, cosa possiamo dire? Ricordiamo che tutto nasce da la precauzione nasce per l'appunto da una crisi sanitaria, quindi è ovvio che dovrà in qualche modo essere gestita questa cosa, e questa cosa può essere gestita visto che non è una malattia incurabile, ma una malattia che richiede molta assistenza medica, quindi questo è una cosa che sicuramente deve essere portata avanti, e bisogna garantire il funzionamento del sistema. Indubbiamente i governi si stanno muovendo un po' in forma così autonoma, prendendo delle decisioni di entità diverse. Non guasterebbe avere delle indicazioni comuni anche a livello banalmente di sforamenti di deficit o quant'altro, proprio per trovare una soluzione ed avere a questo punto, diciamo, una risposta comune ad un problema che abbiamo visto è comune, non può essere chiuso all'interno di singole frontiere, di singoli confini, come magari qualche stato ha iniziato o penso di poter fare. Volevo raccontare anche su Piazza Affari che cosa succede, migliori e peggiori titoli. Ovviamente in positivo nel principale paniere non c'è niente. Abbiamo Nexi che perde il 16%, Fiat meno 15%, STM meno 14,5% con Amplifon e Biperbanca, meno 13% per Unicredit, CNH Industrial ed Atlantia, Ubanca meno 12,5%. I titoli che perdono meno, proprio i super difensivi, Snam Rete Gas meno 1,77%, Terna meno 4,65%, pensate, fra quelli che perdono meno, al gas meno 4,39, di Assorin meno 4,20. Peraltro tra le iniziative delle banche centrali che ho segnalato prima, dalla Corea alla Nuova Zelanda, in realtà non ho ricordato che anche la Banca Centrale del Giappone stamattina ha di nuovo rimesso liquidità sul mercato con il suo contributo. C'è tutto un ragionamento da fare su quello che può essere considerato in questo momento Caiani difensivo. In realtà l'oro è pure sull'otto volante, perché abbiamo visto che stamattina, dopo la mossa della Federal Reserve, aveva avuto un discreto rialzo, poi ridimensionato, adesso viaggia intorno ai $1,540 al barile, per non parlare del petrolio che sta andando a picco sulla scia chiaramente dei timori per una frenata globale della domanda. Ma che cosa può proteggere in questo momento? Avevano ragione tutti quei risparmiatori che negli ultimi tempi si sono ostinati a tenere soldi sul conto corrente sotto forma di liquidità proprio la più semplice possibile, Caiani? Intanto tenere soldi sul conto corrente in eccesso alla fine non è fruttuoso e non aiuta poi, come si può dire, l'intera economia. Io farei una preghiera iniziale, intanto niente panico, perché il sistema non collasserà, ha il supporto di tutte le banche centrali, tutti i governi del mondo, quindi hashtag ce la faremo, dobbiamo pensare a questo, quindi è una fase sicuramente di volatilità. Dal mio punto di vista parlo ovviamente, come si può dire, sono un po' di parte, ma direi che l'utilizzo di strumenti di risparmio gestito, di fondi comuni, di SICAV, credo sia dal punto di vista di diversificazione, soprattutto in un momento come questo, la cosa migliore. Poi sì, è vero, alcuni, diciamo, strumenti tradizionali, citava per l'appunto l'oro o altri, non stanno funzionando, ma se andiamo a vedere quelle che sono delle performance, insomma, da inizio anno ci sono ancora delle asset class che hanno dei rendimenti positivi, restano comunque da questo punto di vista uno strumento ancora molto sicuro. Mi riferisco in particolare, per quanto riguarda il mercato europeo, ai covered bond europei, che sono strumenti obbligazionari che sono, hanno più garanzie, una serie di garanzie, quindi riescono anche in una fase come questa a preservare il capitale, addirittura aggiungere del rendimento positivo. E volevo solo precisare agli ascoltatori Cagliani che non è che io possa andare dal consulente e chiedergli mi dai un covered bond, sono comunque strumenti inseriti dentro risparmio gestito, non è facile per un piccolo risparmiatore andare a sottoscrivere una soluzione come questa, bisogna comunque contemplarla in un portafoglio più ampio. Assolutamente, assolutamente sì, infatti la mia preghiera è di non ricorrere, soprattutto in una fase così complessa, al fai da te. Ma utilizzare forme di risparmio gestito che ritengo siano in assoluto il miglior modo per affrontare mercati di questo tipo. Allora, bene. Grazie a Fabio Cagliani, che lo ricordo è Managing Director Head of Southeast Europe per Nordea Asset Management, grazie, è stato con noi. Noi abbiamo, Deborah, un rapidissimo giornale radio del risparmio per un paio di cosucce che ci stanno a cuore e poi la seconda parte su il decreto legge. Qui vedo che, come tu dici, i mercati non riescono a fare prezzo, ma il governo non riesce a fare il Consiglio dei Ministri perché ancora siamo in attesa. E allora, giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Allora, andate in banca, ma se potete non andateci. È quello che più o meno ci ha detto l'ABI ieri, cara Deborah, perché il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, e il direttore generale, Giovanni Sabatini, hanno detto le banche sono aperte, lo sappiamo, a forza ridotta, un po' come anche il nostro edificio qui è a forza ridotta, ridottissima potendo, cioè veramente sono presenti solo le persone senza le quali non si può davvero fare il giornale o fare questa trasmissione, e le ringraziamo tutte naturalmente. E però ci ha detto anche, ci hanno detto Patuelli e Sabatini, se potete per favore usate gli strumenti di lavoro a distanza anche con la banca, quindi home banking, i bancomat all'esterno delle filiali, i bancomat evoluti con i quali si possono fare anche operazioni di versamento, anche pagamenti di bollette, insomma cerchiamo di non andare in filiale, è una sorta di ulteriore declinazione del principio evitiamo, riduciamo i contatti, così riusciremo a ridurre i contagi. Questo è il messaggio diramato ieri dall'ABI. Deborah. No, tra l'altro credo che anche nel provvedimento Cura Italia, di cui dovremmo conoscere i dettagli formali fra qualche ora, spero fra qualche minuto, io spero, ma magari al massimo fra qualche ora, credo che ci sia anche una esplicita richiesta di riduzione degli orari di apertura al pubblico, dei CAF, dei patronati, dei centri di assistenza fiscale. Noi immaginiamo quante persone in questo momento vadano a chiedere appunto quale è la miglior situazione fiscale che dovrà essere affrontata nelle prossime ore, ma anche da questo punto di vista questi sportelli sono stati invitati a ridurre drasticamente appunto il traffico per evitare ovviamente i contagi, non tanto perché non si vuole dare assistenza. A proposito di attività straordinarie, devo dire che anche le associazioni dei consumatori ci stanno mettendo del loro. Tra le ultime volevamo segnalare questa iniziativa che si chiama assistenza coronavirus, che è stata messa in campo per esempio da Altro Consumo, che ha fatto sapere di impegnarsi in questa in una serie di gesti concreti che possano essere di aiuto a tutti i cittadini italiani. Sostanzialmente si apre un servizio di consulenza gratuita aperta a tutti, si deve andare sul sito di Altro Consumo, compilare un piccolo format online e fare appunto le proprie domande per qualunque, come per esempio posso andare in banca in questi giorni, sì, no, come posso risolvere questo problema. Magari anche l'Associazione dei Consumatori ci dà una mano, si impegnano a rispondere, prendono in carico la richiesta e si impegnano a rispondere nel giro di 24-36 ore appunto al telefono per appunto valutare tutte le possibili situazioni di emergenza nelle quali ci possiamo trovare, per esempio rimborsi di viaggi e tanto altro ancora. Per cui se avete un'Associazione dei Consumatori che vi piace particolarmente, monitoratela, perché sicuramente mettono in piedi delle iniziative di sostegno straordinarie anche loro. We'll be right back. Io segnalo un servizio della Croce Rossa che appunto ci dice che è stato potenziato il servizio totalmente gratuito di consegna farmaci a domicilio per le persone vulnerabili. Il servizio è offerto alla Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federpharma, è attivo per 24 ore su 24 tutti i giorni. C'è un numero verde della Croce Rossa Italiana per le persone, se volete segnarvelo, 800 06 55 10, è rivolto a chi ha più di 65 anni o alle persone comunque non autosufficienti. Quindi questo è un servizio della Croce Rossa che ci fa piacere segnalare, è stato ulteriormente potenziato per questi giorni di sospensione delle attività, di riduzione delle attività. Deborah, senti, io non vi vedo, ma un veloce dillo a due di denari, me lo avete preparato o no? Te lo abbiamo preparato, ma andresti un pochino in ritardo con gli aggiornamenti dai mercati. Che vuoi fare? Decidi tu, cara. Ma guarda, ma allora i mercati ne abbiamo parlato fino ad ora, facciamo il deal a due di denari, visto che peraltro il tema di cui si occupa l'ascoltatore che ci ha chiesto aiuto è un tema al centro del famoso Cura Italia e magari ci serve anche per così un po' per cominciare ad affrontarlo. Che te ne pare? Ma quante ne sai, Deborah? Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Grazie che fate sempre informazione. Mi sono appena informato con la banca per il discorso della moratoria per l'aiuto alle imprese e compagnia bella. Mi è stato detto dal direttore della banca che stanno appunto attendendo tutto, come fare, come non fare, se solo la quota capitale, se solo gli interessi, come fare, diciamo. Però comunque la pratica costerà 100 euro in pratica, la pratica. Questa è l'unica cosa che hanno di sicuro in compagnia bella. Mi sembra che questo non è l'aiuto per gli italiani. Grazie mille. Che dire, Deborah? I dettagli della sospensione, peraltro, allora, la sospensione per quanto riguarda una certa parte dei mutui relativa all'ISEE eccetera è già disposta con un decreto legge, che è il decreto legge numero 9, però quello che ci attendiamo nel nuovo decreto legge è una sospensione generalizzata, quindi a prescindere anche dal livello di ISEE eccetera eccetera. Ne parliamo tra pochissimo nella seconda parte di Dillo a due di denari. Immagino, Deborah, che i 100 euro siano invece la quota dei servizi per la banca, giusto? Ma io credo che, come dire, un piccolo costo dovrà essere sostenuto, perché comunque bisogna lavorare anche per attivare queste pratiche. Mi auguro che magari si possa venire incontro in questa fase a persone un po' più in difficoltà, magari rimodulando anche questi oneri che devono necessariamente essere sostenuti anche appunto sul fronte bancario. Non so che dire, Mauro, vediamo un po', insomma, sperimentiamo un terreno abbastanza ignoto per tutti e quindi forse anche le banche dovranno sperimentare questo terreno del far pagare quanto meno possibile i clienti per gestire queste situazioni di emergenza. Ci torniamo tra pochissimo, adesso le borse. Ma per favore, ma vabbè, comunque, arrivederci. Due di denari. Buongiorno Deborah, penso che l'unica cosa che potrebbe risanare le nostre borse sarebbe l'annuncio di aver trovato una medicina o un vaccino contro il coronavirus. Buon lavoro. Ma io sono mesi che vi ascolto e mesi che vi dico di tenere i soldi nel materasso, ve l'avevo detto da mesi. I soldi vanno tenuti nel materasso, quelli non ve li tocca nessuno. Volevo raccontarvi il mio sdegno per un consiglio dei ministri convocato via Skype alle ore 10, mentre medici e infermieri fanno turni di 12-14 ore negli ospedali. Una vergogna! E allora, andiamo a vedere, a cercare di indovinare che cosa ci sarà in questo decreto legge Cura Italia, decreto legge molto molto lungo, complesso, articolato, e tanto che appunto il Consiglio dei Ministri continua a essere rinviato. Abbiamo in collegamento sia il collega Cristiano Dell'Oste. Buongiorno Cristiano, sei sempre lì, scusaci, ti abbiamo fatto aspettare un po', ma so che tu intanto compulsavi le televisioni, le agenzie, il sito del governo, giusto? Sì, buongiorno, ci siamo Mauro, eccoci. E poi abbiamo anche Luca De Stefani, commercialista esperto del Sole 24 Ore, per cercare di rispondere a qualcuno dei dubbi che molti di voi ci stanno sottoponendo. Buongiorno, dottor De Stefani. Buongiorno a tutti. Allora, ci sono tantissime domande, ovviamente stiamo ancora ragionando su bozze e anticipazioni, qualcosa lo sappiamo, qualcosa no. In primo luogo però io, cara Debora, devo fare delle scuse, perché prima, quando abbiamo aperto la trasmissione, ho detto 16 dicembre. Hai sbagliato calendario. Sì, lo so. No, ma Freud su questo avrebbe costruito sicuramente almeno un paio di paginette, perché il 16 dicembre, forse io mi auguro un 16 dicembre 2020, 2021, non lo so, insomma. Esatto, vorremmo tutti essere questo. Già là. Esatto. Ovviamente parlavo di oggi, 16 marzo, ohimè, scadenza per il versamento IVA. De Stefani, non paghiamo però questo versamento, giusto? Ma non per tutti però, eh. Ah, ecco, allora facciamo chiarezza, grazie. Certo. Ecco, nelle ultime bozze in circolazione, allora, vi sono due categorie di soggetti. Vi sono quelli che non pagano questo saldo IVA, questo importo dell'IVA del mese di febbraio, oltre che il saldo IVA per il 2019, che sono ad esempio le imprese turistiche, le agenzie di viaggio, le associazioni sportive, le palestre, chi organizza fiere, corsi, ma anche la ristorazione, gelaterie, pasticcerie, pub, tutti questi soggetti, anche quelli del trasporto ad esempio, tutti questi soggetti, a prescindere dal fatturato, non devono versare l'IVA, le ritenute fiscali e neanche i contributi INPS dei propri dipendenti. Devono però stare attenti che oggi scade, se sono un SRL o una società di capitali, ma più probabile magari un SRL, devono versare i 309 euro della tassa di rimozione dei debiti sociali, che non è stata prorogata. Lo stesso più avanti, al 20 di aprile, dovranno versare l'F24 dell'imposta di bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra un certo importo. Va pagata ogni 3 mesi questa imposta di bollo, e anche questa imposta non è stata prorogata. Questa proroga per questi soggetti parte dal 2 marzo fino al 30 di aprile di quest'anno, e i pagamenti andranno effettuati dal primo, o in un'unica soluzione, il 31 di maggio, oppure dal 31 di maggio in 5 rate. Allora, poi ci sono altri soggetti che invece abbiamo dei limiti. Scusa Mauro. No, prego, prego Luca. Sì. Ecco, abbiamo tutti gli altri soggetti invece, che è la grande categoria di commercianti, artigiani, commercianti all'ingrosso ad esempio, artigiani o industrie, che solo se hanno un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro non pagano oggi l'IVA, le ritenute fiscali e i contributi INPS, e non applicano le scadenze, insomma non seguono le scadenze che partono dall'8 di marzo fino al 31 di marzo di quest'anno, e anche per loro c'è la proroga al 31 di maggio. Però quelli che superano questi limiti ovviamente devono pagare tutto, non solo la tassa di concessione governativa come gli altri, ma anche l'IVA, i contributi, eccetera, eccetera. Non è possibile che questa tassa, specialmente quella di concessione governativa, venga prorogata con questo decreto legge? Lo chiedo a Cristiano Dell'Oste, che so che se lo sta leggendo rigo, bozza dopo bozza. Cristiano. Ma sì, diciamo che qua la situazione è molto complicata, perché è sicuramente una situazione in itinere. Diciamo che rispetto alle indicazioni che ci dava adesso De Stefani, un punto fermo dovrebbe essere, è con l'indicativo, che chi sbaglia e in buona fede non versa dovrà andare esente da sanzioni, perché qua abbiamo un comunicato che è arrivato soltanto sabato da parte dell'INPS per quanto riguarda la componente contributiva. E poi abbiamo un altro comunicato che è arrivato venerdì sera tardi, nel senso nel tardo pomeriggio di venerdì, da parte del Ministero dell'Economia, con una formulazione nemmeno troppo chiara. Quindi è ovvio che in epoca di serrata delle attività, di smart working a tappeto, di studi professionali che stanno operando a scartamento ridotto, di imprese che spesso hanno il personale a casa, il comunicato mandato il venerdì tardi con l'obbligo di pagamento il lunedì, non può, risolvere tutti i problemi. In più abbiamo il decreto legge. Allora, il Consiglio dei Ministri, adesso cambia poco che si tenga alle 9, alle 10, alle 11, a mezzogiorno di oggi. Ciò che rileva è che poi alla fine questo provvedimento, questo decreto legge, vada nella Gazzetta Ufficiale di questa sera, con quella datata 16 marzo, con un testo affidabile. Quello sarà il punto di riferimento. chiaro che chi dovesse aver pagato prima ormai ha pagato e non ci potrà più fare nulla. Beh, tra l'altro il ministro Gualtieri ieri ha detto: vabbè, ma se avete pagato, dai, lasciateci, non tornate indietro. In qualche modo ha fatto una mozione degli affetti, verrebbe da dire, no Cristiano? Sì, tra l'altro in una delle bozze c'era anche una norma abbastanza curiosa, per cui, ammesso che qualcuno voglia farlo, chi paga regolarmente pur potendo beneficiare della sospensione può chiedere di essere menzionato sul sito del Ministero dell'Economia come una forma di riconoscimento, diciamo. Sì. E lascia un po' il tempo che trova forse sì, a questa disposizione, ma insomma la segnaliamo. Allora, dico due cose e poi andiamo per le informazioni sulla viabilità, due cose di cui chiedo conferma a De Stefani. Bilanci va bene, perché qui riguardano imprese grandi, piccole, siamo in tempo se si fa entro il 30 giugno l'approvazione e le assemblee si possono fare anche in videoconferenza pure se lo statuto non lo prevede, non l'ha mai previsto. De Stefani, queste due indicazioni sono confermate già, sono stabili, dobbiamo aspettare il decreto legge? Sì, sono già confermate, diciamo che nel decreto legge viene ulteriormente indicata questa possibilità, però ecco, senza il decreto legge diciamo che comunque era necessario indicare nello statuto, era preferibile indicare nello statuto, anche se c'è un ottimo articolo di Busani di qualche giorno fa sul Rendicontore che richiamava e diceva che era comunque una questione superata. Però ecco, il decreto legge, nonostante ciò, dice chiaramente che non c'è nessun problema se si effettua la assemblea entro il 30 di giugno di quest'anno per tutte le SL e le SPA, anche se non è indicato nello statuto questa possibilità, anche se non abbiamo i casi particolari specifici tipici dell'azienda, non casi generali, e comunque è possibile appunto effettuare anche la conferenza, l'assemblea in videoconferenza, in audioconferenza. L'importante è che venga identificato il soggetto, e questo può essere effettuato ad esempio per l'audioconferenza attraverso la digitazione di un codice nel telefonino, ad esempio inviato preventivamente ai diversi soci, penso nel caso in cui abbiamo una SPA dove ci sono soci non conosciuti magari dal segretario o dal presidente. Sì, so che poi molte aziende, compresa la nostra, stanno lavorando molto con le audioconferenze, con le conferenze da remoto, e quindi insomma si adottano le normali precauzioni che si adottano in questi casi. Ci fermiamo un istante, un attimo di pazienza per tutti, perché ci sono le informazioni sul traffico. Due di denari. Finché l'emergenza non finisce, si sospende tutto quello che c'è in corso, si sospende tutto. Allora la gente non va in banca, non va in posta, perché da un lato ti tengono blindato in casa e dall'altro però tutte le scadenze, gli oneri, tutto quello che c'è da fare te lo tengono attivo. Ridurre gli orari di lavoro non significa aumentare gli assembramenti? Non sarebbe meglio mantenere gli stessi orari di lavoro dando degli appuntamenti? E tutte le situazioni inedite purtroppo pongono problemi inediti di cui non abbiamo grandi soluzioni. Sai Deborah, c'è una cosa di cui vorrei chiedere una conferma a Cristiano. Molti ascoltatori ci dicono: ma guardate che si sta parlando di una virus tax, a parte che mi pare l'ultima cosa di cui avremmo bisogno. Cristiano, a me sembra invece che nel decreto legge, quello che aspettiamo da giorni, ci siano i virus bot, i virus bond, insomma ci sia un po' di emissione di debito per sostenere le misure. Allora, diciamo che questa della virus tax la possiamo annoverare tra le bufale, fake news, panzane, chiamiamola come volete. Al momento non ce n'è traccia, sarebbe folle ovviamente pensare a un tributo nuovo mentre stiamo sospendendo quelli vecchi. Questa è una manovra che con il beneplacito dell'Unione Europea verrà fatta sostanzialmente in deficit, che vuol dire in disavanzo, andando poi chiaramente a incrementare l'esposizione debitoria, il debito del nostro paese, ma questa è una di quelle situazioni in cui in emergenza bisogna intanto tutelare le imprese, anche le attività professionali, le attività autonome, mantenerle aperte in modo che poi quando l'emergenza sarà passata possano continuare a operare, a garantire lavoro e a pagare imposte. Diciamo anche una cosa, che sentivo alcuni messaggi a favore di una sospensione, di una chiusura generalizzata di tutto quanto. in realtà in una fase così delicata chi ha la forza, diciamo, economica di continuare a fare i pagamenti di imposte e contributi è bene che li faccia, perché purtroppo certo. Il nostro paese non è in grado di stampare moneta, non ha neanche un debito pubblico così contenuto, anzi, e quindi se vogliamo avere il margine per poter aiutare chi veramente in questo momento non sta incassando nulla ed è con l'attività economica chiusa, bisogna che chi invece qualcosa sta continuando a fare continui a pagare per poter avere il margine per intervenire in questo senso. Questo è un principio che secondo me non dobbiamo perdere, nel dire fermiamo tutto, sì, ma con questa avvertenza. Certo. Mauro, Deborah, no, volevo solamente togliermi una curiosità, se tu sei d'accordo, per tranquillizzare sempre i nostri amici contribuenti che magari non vivono tanto bene il fatto di avere l'opportunità di vedersi sospesi i termini relativi agli adempimenti fiscali, no? Perché comunque è tutto frutto di una situazione di emergenza, non lavori, per cui anche questa sospensione, che sicuramente fa, è un sospiro di sollievo per molte persone in difficoltà, ma magari ognuno vorrebbe pagare, stare in una condizione di tranquillità professionale e lavorativa. Ecco, queste sospensioni poi non mi ricordo se lo abbiamo detto nelle spiegazioni appunto precedenti. I termini riprendono il 1 giugno 2020, giusto? E ci sarà la possibilità di rateizzare tutti i pagamenti sospesi fino a questo momento senza sanzioni ed interessi. Forse questo vale la pena valorizzarlo un pochino. Siamo sicuri che avverrà secondo queste modalità? Lo chiediamo a Luca De Stefani, ovviamente. Luca. Sì, certo, con le eccezioni di cui abbiamo detto prima, ad esempio le imprese o i professionisti che hanno più di 2 milioni di fatturato. Ecco, un'altra cosa positiva comunque del decreto è anche la sospensione degli adempimenti tributari veri e propri, diversi dai versamenti. Quindi penso alla dichiarazione IVA, che scadrebbe il 30 di aprile, ma viene prorogata al 1 giugno, lo stesso gli esterometri e anche i modelli Intrastat. Quindi sono tutti adempimenti, qualunque adempimento tributario viene prorogato a giugno. Lo stesso poi abbiamo le problematiche delle dichiarazioni dei 7.30, dei precompilati, abbiamo... che sono ugualmente prorogati, no? Perché la precompilata esatto. La dovremmo vedere a maggio, giusto? 5 maggio, sì, corretto. La disponibilità della precompilata, che sarebbe dovuta essere il 15 di aprile, si potrà vedere appunto nel sito dell'Agenzia di Entrate, la precompilata è 7.30, precompilato il 5 di maggio. E l'invio del 7.30 è stato prorogato dal 23 di luglio al 30 di settembre. Lo stesso l'invio dei modelli unici CU, dei modelli CU, le certificazioni uniche che certificano sia i lavoratori, i redditi percepiti dei lavoratori dipendenti, sia i redditi percepiti dai professionisti, è stata prorogata questo invio dal 7 del 3 al 30 a fine di questo mese, quindi non è stato prorogato, attenzione, al 1 giugno, quindi è un adempimento che è stato previsto nel primo decreto contro sì. Il coronavirus ed è rimasto ancora questa scadenza qua di fine di questo mese, quindi non c'è un'ulteriore proroga. Quindi entro marzo va mandata la CU, va mandato il riepilogo. Magari, ecco, scusami Luca, va mandato anche quella comunicazione che i datori di lavoro domestico, colf e badanti, per capirci, danno sì. Ai loro... dipendenti, alle colfe, alle badanti, cioè il riepilogo sì. Di quanto è stato pagato come stipendio, come retribuzione. Quindi... È corretto, sì. È stato prorogato al 31 di marzo e ricordiamo proprio per i colfe, per le colfe e per le badanti, il versamento trimestrale dei contributi che scadeva al 10 di aprile, esattamente, scadrà il 10 di giugno. Questa è stata una proroga per il pagamento del bollettino postale, appunto. Un ultimo filone molto importante, mi pare quello della riscossione. Allora, ci hanno comunicato che si sono fermati tutti gli atti della riscossione. Allora, qui ci vorrebbero due trasmissioni per riepilogarle, Deborah. Però io chiedo a Luca De Stefani se ci fa un rapidissimo assunto. Abbiamo 2 minuti. Sì. Per quanto riguarda i controlli, c'è i termini per le attività di controllo di liquidazione da parte dell'Agenzia di Entrate e anche della riscossione. Le attività di controllo, diciamo, dell'Agenzia di Entrate e della Guardia di Finanza sono sospesi fino a fine di maggio. Quindi se arriva un avviso di regolarità, un avviso di accertamento, i termini anche per effettuare i ricorsi sono prorogati. Ecco, per i ricorsi, per i ricorsi sono prorogati fino al 15 di aprile in base alle ultime bozze che sono disponibili. Quindi non, mentre per quanto riguarda le attività vere e proprie di controllo dell'Agenzia Entrate, loro si fermano fino a fine di maggio. Poi le cartelle esattoriali, sia per le entrate tributarie che non tributarie, sono sospesi i versamenti e anche le rateizzazioni. Queste fino al 30 di giugno, quindi tutto quello che scade fino però a fine maggio dovrà essere pagato in unica soluzione entro il 30 di giugno. Ci sono anche tutte queste varie sanatorie, quindi un ascoltatore chiede: saldo e stralcio, dovevamo pagare il 30 marzo, andiamo a fine giugno? Dovrebbe essere fine giugno, esattamente. Sì. Cioè, poi chiaramente avremo bisogno di circolari e quant'altro, sai Deborah, per gestire il tutto. Cristiano, un'ultima battuta con te, niente ancora dal Consiglio dei Ministri mi pare, siamo in attesa. Siamo in attesa al momento, direi di sì, E se abbiamo ancora un minuto c'è forse una cosa che si può ricordare. 10 secondi. Allora, 10 secondi, segnalo tra le misure da non perdere i 600 euro per gli autonomi alle prese con la crisi e un credito d'imposta per i negozi chiusi in questo periodo, che quindi non stanno avendo clientela. Credito d'imposta pari al 60% del canone mensile che devono pagare. Grazie Cristiano Dell'Oste, grazie a ovviamente Luca De Stefani, restate a disposizione. Deborah, a te la conclusione. Sì, ci sentiamo domani. No, allora c'è un ascoltatore, poi salutiamo, che chiede: avete notizie sullo slittamento delle revisioni auto a 3 mesi? È il tema che affrontiamo domani. Bene. Bene, buona giornata.